19.01, martedì 9 aprile, siamo sulle frequenze di Radio Onda Rossa 87.9, modulazione di frequenza, sta per iniziare una nuova puntata di Likewise. Andiamo un po' alla nostra sigla, cantata e suonata da Moonchild Sunnily, una letta di musica insieme. Bentrovati a tutte e a tutti, allora iniziamo questa nuova puntata di Likewise, potete chiamarci fino alle 20, ci trovate in studio 06 49 17 50, potete scriverci likewise@ondarossa.info, trovate tutti i nostri podcast sul sito della radio www.ondarossa.info, c'è il nostro canale Telegram likewise-trattino-basso-trx e... adesso arrivo, c'è il radio abbonamento, voi lo sapete, no? Che ci state ascoltando, penso che chi ascolta questa radio lo sa tutti i giorni e gli viene ricordato tutti i giorni, questo è sempre utile comunque farlo, anche noi a Likewise lo facciamo, soprattutto per quando è attiva la campagna. Se andate sul sito c'è il bellissimo disegno di sonno, cliccateci sopra e andate a fare il radio abbonamento, sapete che abbiamo bisogno di voi. E grazie a chi sta sostenendo la radio, appunto, insomma, i radioabbonamenti aumentano, lo potete guardare come dicevi Pinclo, sia da, insomma, cliccando sul banner dal nostro sito, andando appunto sulla crowdfunding che c'è sul Produzione dal Basso, grazie a Brunella che 6 giorni e 19 ore fa ha fatto la donazione, ma grazie anche a Claudia, grazie anche a Christian, forza, forza, forza, radioabbonatevi. Ah, e sono rimaste solo 9 tasse delle 37 super edizione limitata, quindi edizione limitata e firmata, quindi è firmata, insomma, c'è, cioè, veramente sì. special. Cominciamo con una band di cui abbiamo parlato settimana scorsa, mi sembra, o 2 settimane fa. Loro sono Destroy Boys, Plucked. 1 2 3 4. My voice, taking my choice, not mine in the first place. My fears unseen, my troubles faking. But my days are full of material, but I can't write anything. I forgot how to sing, just a bird with plucked wings. On paper. But my days are full of other people, and it's becoming way too much. I forgot how to sing, just a bird with plucked wings. Thank you. Questa è la Destroy Boys, una band già passata da queste parti con il loro nuovo singolo che si chiama Plugged, quindi nuovo singolo per questa band di Sacramento, formata da, diciamo, composta da quattro elementi in questo momento, perché si è aggiunta un'altra persona, ma insomma il nucleo e le fondatrici della band sono Alexia Roditis e Violet Mayugba. Come dicevamo, vengono da Sacramento, sono, hanno tre album in studio all'attivo, insomma tre EP, una bella manciata di singoli, tra cui quest'ultimo che vi abbiamo fatto ascoltare. Sono in giro da un po', dal 2000, cioè il loro debutto discografico è del 2015 con Sorry Mom, quindi insomma hanno già un po' di carriera alle spalle, sicuramente tantissimi concerti, sì, che è il motivo per cui credo sia uscito anche questo singolo, un po' per promuovere, sì, per spingere diciamo i vari festival ai quali parteciperanno. Sono una di quelle band che suona tantissimo, insomma, e così fanno anche soldi per campare come molte artiste, e saranno insomma in giro anche a molti, in molti festival europei, quindi se vi capiterà probabilmente le incrocerete. Non vogliono essere infilate nel movimento delle Riot Girls, anche se in qualche modo l'eco un po' si sente, più che altro si sentono le sonorità grunge come abbiamo sentito. A tal proposito, e penso che un po' tutti quelli che ci ascoltano l'avranno in qualche modo letto qua e là, sono ricorsi i 30 anni della morte di Kurt Cobain, e stasera ci sarà una puntata dedicata di note, cose e città a Kurt Cobain e Nirvana, immagino. Ma sei sempre informata, ma ti senti proprio con loro personalmente, segui i loro social. Segui i loro social. Ok. Per quello lo so. Capito. Mettiamo il prossimo pezzo. Mettiamo il prossimo pezzo. Francis of Delirium, Who You Are. Just like a mask, easily hurt and underdressed. I'm complicated at best, then at worst I'm just obsessed. I thought you were afraid, so I acted the same. I wish that I could change you. So is this who you? Overjoyed by you and I regress. I can't commit to you. Tried it once but then it turned me blue. You want another try. Wish that I could show you reasons why. Yeah. E torna Francis of Delirium qui a Likewise sulle frequenze di Radio Onda Rossa. Who You Are è il titolo di questo pezzo. Abbiamo già ascoltato il singolo che preannunciava l'album, che si intitola Lighthouse. Abbiamo deciso di farvelo riascoltare, come spesso capita da queste parti, perché poi abbiamo ascoltato l'album e l'album è molto carino, molto bello. Ci sono dei testi molto romantici e molto queer, e vi lascio indovinare chi è la romantica tra le due conduttrici di questo programma. Io, ovviamente. Infatti, e siamo entrambe comunque, mamma mia, al nostro modo. Esatto. Io non aggiungerei altro, visto che abbiamo parlato di questa band, diciamo, no, pochissimo tempo fa. Sì, e a questo punto andare in autunno, ne avevamo parlato in autunno, perché loro fecero uscire il singolo che preannunciava l'album molto molto prima di quando, insomma, poi effettivamente l'album è uscito, quindi è anche uno dei motivi per cui veramente le abbiamo riacchiappate, perché era passato un discreto, insomma, autunno, inverno, quasi due stagioni, tre anzi, che siamo in primavera. In concerto, tra l'altro, in Europa, Vienna, vari posti non troppo distanti dall'Italia, quindi insomma, se vi capita e vi piace questo sound, insomma, avrete occasione di vederle dal vivo. Sono le 19:13, state ascoltando Likewise, la puntata numero 82, l'abbiamo detto? No, non l'abbiamo detto, l'ho detto io. E adesso mettiamo la cantautrice. Sei strana oggi, si può dire. Oggi sei strana, è la primavera, l'allergia, ovviamente. Non lo so che cosa sia, tutte e due. C'hai un mood strano oggi. È vero, probabilmente. Lei ne abbiamo parlato qualche settimana fa, non troppo in realtà, per un progetto molto bello che sta portando avanti, in realtà, di un disco i cui proventi verranno destinati al Palestine Children's Relief Fund. E ci sembrava anche il caso, visto che il 22 marzo di quest'anno è uscito per la 4ID Records il suo sesto disco, di ascoltarcela comunque anche con il suo lavoro ultimo. Sì, a proposito del fundraising di cui parlavi, il 15 marzo c'è stato un update da parte di Adrian Lenker, perché stiamo parlando di lei, sui suoi social, dicendo appunto che erano stati raccolti sul suo Bandcamp con questa raccolta di singoli che si intitola I Won't Let Go of Your Hand, $74,000-$75,000, insomma, quindi mazza, una bella cifra. Il 100% questa cifra sarebbe andata appunto al fondo che citavi prima, quindi insomma, ovviamente i singoli sono ancora lì, le donazioni sono ancora possibili, quindi insomma, se cercate il suo nome sul sito di Radio Onda Rossa nelle nostre puntate lo troverete, ma rimettiamo il link al progetto anche nel sommario del podcast domani. Comunque, per il momento ci ascoltiamo Vampire Empire. Yeah. E abbiamo scelto Vampire Empire per rappresentare questo Bright Future, che è il titolo dell'album uscito il 22 marzo, come dicevi, scorso, per la 4AD di Adrian Lenker. Come dice lei stessa nella descrizione di questo album, un triple A, analog, è un album registrato in uno studio di registrazione tutto di legno, e tutto quello che c'è in questo in questa registrazione è brutalmente onesta, dai suoni prima di cominciare a fare proprio il pezzo, diciamo. Quindi dai sussurri che magari i musicisti che l'accompagnano fanno tra loro durante la registrazione del pezzo, tutto è stato lasciato esattamente come è venuto nella registrazione, ed è venuto in una maniera molto molto onesta. E credo che appunto questa sia la forza di questo album. Io non sono un'appassionata di Adrian Lenker personalmente, né di Big Thief, che è la bendona di cui fa parte, di cui è diciamo chitarrista e compositrice, però devo dire che questo album è decisamente, insomma, un lavoro imprescindibile. Bisogna ascoltarlo almeno qualche volta. È vero, bisogna ascoltarlo, pure se appunto diciamo che l'alt country non fa proprio parte dei vostri ascolti quotidiani, però è vero, è un album talmente schietto, onesto e sincero che in qualche modo si fa rispettare e piacere. Tra l'altro anche i testi, insomma, che sono veramente un po' delle liriche belle, anche lì è molto brutalmente onesta, insomma, c'è corpo, sangue, pelle, sudore, desideri, insomma, è veramente molto, è un bel viaggio, molto intimo. Quindi direi ascoltatelo e fateci sapere, semmai. Che ore sono? Le 19:21, siamo al quarto pezzo di questa scaletta di oggi 9 aprile. Questa è Likewise, questa è Radio Onda Rossa, Aluminum Behind My Mouth. Fuck, I go if I really let go. Do you ever see behind my mouth? Aluminum Behind My Mouth è il titolo di questo singolo che preannuncia il loro album che si chiamerà Fully Beat e uscirà il 24 maggio prossimo per la Felt Records, che è un'etichetta californiana. Dietro perché questo... loro sono di San Francisco. Esatto, dietro questo diciamo band e dietro anche il basso e in questo caso voce anche del pezzo che abbiamo ascoltato c'è una bella tipa che si chiama Rian Gonzalez, che fa parte sia di questa band sia di un'altra band che si chiama Torrey. Per curiosità andate ad aprire il suo Bandcamp e troverete una quantità di progetti nei quali, dei quali fa parte in varie vesti, in varie modalità, che veramente insomma è una artista do it yourself all'ennesima potenza. Il suo ultimo album solista risale a un paio d'anni fa, quindi insomma veramente una produzione incredibile. Quindi è debutto, si fa per dire, sì, è il debutto di questo debutto progetto di questo progetto, esatto. Allora, bene, bene. Allora, noi dobbiamo ricordarvi sempre e comunque più e più volte durante la trasmissione che dovete radioabbonarvi. Lo potete fare andando a cliccare su ondarossa.info, sul bellissimo banner che non potete sbagliarvi, è proprio lì che vi chiama e vi aspetta. Fate un click lì e fate un click, insomma, e donate qualche soldino a questa radio che ha bisogno di voi. Così, tanto che donate qualche soldo, potete anche spulciare tra le trasmissioni della radio e magari trovare la vostra favorita, se la vostra favorita non è Likewise. Esatto, e comunque sapete che trovate anche tante informazioni, la rassegna stampa del giorno, i redazionali di queste settimane e anche delle passate. Potete cercare per area tematica, per parola chiave, insomma. Si trovano tantissime cose sul sito della radio. E prima di noi, per esempio, andate in onda l'ora di buco, insomma, il programma ormai, cioè da presentarlo l'ora di buco, no, tutti lo conoscono ormai, insomma, che è una trasmissione dedicata alla scuola in senso generale, al lavoro nella scuola, a tutto quello che si muove intorno alla scuola. È suonato qualcosa che non so che cosa sia, ma niente che ci appartenga, qualcuno qui perché fuori. Perché abbiamo le finestre aperte, perché fa caldo. È primavera e seguirà invece la nostra trasmissione, la trasmissione preferita da Pinclo, che è Otto cose città. Poi c'è Semiglia, poi More Fire, come sapete, per ogni martedì piena di musica qui su Radio Onda Rossa, 19:27. Non perdiamoci in chiacchiere, perché tra l'altro Otto cose città è già arrivato, quindi noi come al solito incombe, esatto. Incombe. Il prossimo pezzo a lei è Ivelisse Guardia Ferragutti e Frank Rosalie, The Jester. Las diferencias del presente. I Melissa Guardia Ferragutti e Frank Rosalie. The Jester era il singolo, che è l'unico in realtà che trovate di questo duo, sia nella musica che nella vita, in giro, perché appunto il loro album, che si intitola Mestiz, sarebbe Mestizza, che in portoghese significa mischiato, meticcio, in realtà esattamente la traduzione penso che sia questo. E i Belize è appunto, come dicevamo, intanto non trovate altri pezzi della loro diciamo produzione, storia. Sì, di loro sappiamo che di Belize, che vive ad Amsterdam, è nata in Bolivia, cresciuta in Bolivia in una famiglia boliviana e brasiliana, e lei descrive il suo lavoro, che è un lavoro di vocalist, teatrante, performer, musicista, artista visiva, come un lavoro profondamente intrecciato nella giustizia postcoloniale, nel paradosso e nella bellezza, tra dolore e celebrazione, nella cosmologia andina come fonte di vendicazione, resistenza e resilienza. Incarnazione incorporata, racconta ancora Ibelis, nei tessuti sonori, mentre specula sui miti attraverso oracoli di parole. Sono una neometiccia, un'attivista spirituale, una difensora delle donne e un amante della luna. Quindi insomma una bella presentazione, anche un succulento singolo che ci fa intrigare, e quindi vogliamo sapere. Quando esce di più. L'album? Non lo sappiamo. Sappiamo soltanto dal sito di questo duo che c'è un elenco di pezzi, ma appunto non sono ascoltabili, quindi vedremo. Loro hanno fondato una etichetta che si chiama Molk Factory nel 2017, che ha base ad Amsterdam, quindi insomma probabilmente a breve ascolteremo di più. Mi sembra un'ottima notizia. 19:33, pezzo numero 6 della scaletta di questa sera. Loro sono il Goes Away, Spaced Out. Di bella energia da parte della band Gouge Away, Spaced Out era il titolo di questo singolo, tratto dal loro lavoro uscito lo scorso 15 marzo per la Death Wish Inc., che si intitola Deep Sage. È molto divertente la storia di questo pezzo, che in realtà racconta la cantante della band, Cristina Michel, era stato scartato perché era un pezzo che insomma sembrava non riuscire, di quelle cose insomma che uno la suona, però poi non vede mai la fine, e invece poi a un certo punto in studio l'hanno raggiunta altre compagnelle, altre voci, che sono quelle che urlano dietro, Hayley Butters, Megan O'Neill e Jasmine Watson, tutte musiciste che fanno parte di altri progetti, e quindi è nato il pezzo ed è uscito come singolo, quindi sono molto contenta di questa cosa. Sì, poi insomma la band in realtà dopo all'inizio della pandemia si sono separati, insomma hanno avuto un momento un po' complicato proprio per la band tutta, però la lontananza in realtà l'assenza e il passare del tempo li ha fatti riavvicinare e quindi si sono rincontrati 2 anni fa. Hanno rimesso in mano al materiale che avevano, al materiale nuovo, hanno ragionato anche in una maniera un po' diversa sulla loro musica ed è uscito questo terzo disco quest'anno. Che non sarà il tuo preferito, Pink, no. Lo so già, perché non tanto ti piacciono questi ritmi un po' più pancheggianti. No, non è il ritmo, però è lei invece... che urla tutto il tempo. Da questa parte dei microfoni, sì. Invece siamo un po' più per. Ma sappiamo, ma Likewise è fatto per questo, cioè ascoltiamo di tutto, dal jazz contemporaneo al punk hardcore. E ci piace per quello, no? Penso anche a chi ci ascolta, spero. A voglia. Questo è Likewise, questa è Radio Onda Rossa. Siamo pronte per il prossimo pezzo. Loro sono Pearl and the Oysters nella versione remix di Salami Rose. And the audience. Oysters nella versione remix della musicista, produttrice e multistrumentista Salami Rose Joe Lewis, che appunto è il, diciamo, lo pseudonimo di Lindsay Olsen, che è l'artista che ha fatto questo remix, che ci dà la possibilità di raccontare un po' di un altro duo, sia nella musica che nella vita, che appunto sono Juliette Pearl Davis e Joachim Pollack, nati più o meno in Europa, dalle parti di Parigi se non ricordo male, e poi spostatisi invece sulla costa californiana. Credo che lei fosse americana e lui diciamo francese, ma non importa, si sono incontrati comunque al liceo a Parigi, si sono subito trovati sia nella vita che nella musica, e insomma fanno questo, hanno questo sound che spazia tra il jazz degli anni 70, il pop spaziale degli anni 90, qualche eco di Stereolab, che tra l'altro sono stati anche ospiti del loro disco Coast to Coast, che è uscito all'aprile dell'anno scorso, che è il loro quarto album, che è stato il primo per la Stone Throw Records, e che è il disco da cui sono di cui è uscito insomma una versione di remix, che è quella che abbiamo ascoltato noi, che era uscita insomma a fine, a inizio dicembre, l'8 dicembre mi sembra. Però è tutto un disco che racconta insomma di questi viaggi tra la Florida, la California del Sud, Parigi, perché loro si sono spostati tantissimo in questi anni alla ricerca forse di un posto per loro, concludendo che hanno trovato il senso di casa l'uno nell'altra. Speriamo che gli va bene sempre. Speriamo che gli vada bene sempre, ma diciamo quello che ci piace è un po' anche che nel racconto di questa ricerca, no? Per il posto dove fare la propria musica, partita abbastanza lontano, poi insomma ha avuto un bel lieto fine, no? È bella questa cosa di trovare poi in realtà, perché la musica non è soltanto quello che tu fai nella tua cameretta, no, certo, ma è anche la comunità di artiste e artisti che è in giro, che è intorno a te, che in qualche modo ti aiuta anche a sviluppare le tue idee e a metterle, a realizzarle, quindi questo ci piaceva molto. Sì, infatti il disco è pieno di ospiti e secondo me peraltro è molto piacevole, se piacciono un po' anche queste sonorità pop, ma non, appunto non banali, sempre sì, insomma un po' se vi sono piaciuti gli Stereolab nella vita, insomma quelle sonorità lì molto piacevoli da mettere insomma su. 19:44, siamo al pezzo numero 8, e dai che siamo puntuali. Sì, bravissimo. forse annuncialo. May Semones, Inaka. Bye bye, さよなら僕は田舎に引っ越したい、つまらないくだらない毎日、If I'm with you I don't care where we areIn the country by the ocean on a farm. Now I'd move to the moon if nowhere if I'm with you. Cause if I'm with you I don't care where we are. You could eat, 行きたい呆れた汚れた息苦しい Fine. don't care where we are. In the country by the ocean on a farm. Simones Inaka, tratto dall'EP Kabutomushi, Sì. Cantautrice e chitarrista Mei, che viene da New York, anche se ovviamente, come avete ascoltato, anche insomma dai testi è anche giapponese, quindi insomma i testi mischiano queste due lingue in maniera molto divertente, così come la sua formazione jazz entra di prepotenza dentro insomma il suo indie rock, e quindi mescola tutto in maniera molto interessante. Mentre cercavo un po' di notizie sul web di questa artista, mi faceva un po' ridere che mi sono imbattuta nelle pagine di Rolling Stones, quella orribile rivista che scopriva May al suo terzo EP, che mi veniva a dire: se scopri una al terzo EP, è vero, l'ho letto anch'io, un altro lavoro comunque, scusa. Cioè, se scopre la gente al primo EP, no al terzo EP. Al terzo EP lo sanno tutti. Non l'hanno, probabilmente infatti gliel'hanno suggerita. Vabbè, Rolling Stone vive di un passato glorioso, cioè campa perché ha avuto un passato glorioso negli anni 60 e che è anche finito presto, perché diciamo che dopo quella stagione già là si erano abbastanza corrotti, se possiamo usare questo termine. Quindi insomma un EP godibile, soprattutto se vi piacciono appunto queste sonorità jazz, bossa nova e un po' diciamo morbide, ecco, sì, come sì. Mi viene da dire. Infatti secondo me è un lavoro molto interessante. Le dice che le canzoni che scrivevo sono iniziate a piacermi solo quando ho cominciato a usare il giapponese e l'inglese, ed è questo uno dei motivi per cui appunto i testi che sentiamo sono in entrambe le lingue. E credo che abbia fatto i primi concerti solo in giapponese quando ha fatto un tour in Giappone, se no per il resto appunto mischia entrambe le lingue e anche le sue conoscenze, cioè porta cose, arpeggi imparati nella musica jazz, nella scuola di musica jazz, li porta nell'indie pop, nell'indie rock, prova a vedere cosa succede e direi che gli esperimenti riescono abbastanza. Questo EP è di 5 tracce, è uscito adesso 5 aprile e ce lo godiamo, dai. Ed è al lavoro sul suo disco d'esordio, questo però si sa, è già un'anticipazione che si è letta nel web appunto. Oggi andiamo proprio morte tranquille, così è la primavera. È la primavera. Il fatto che fa un po' caldo qui a Roma, non so com'è dalle vostre parti. Un po' caldo. Salutiamo chi ci ascolta in radio sulle frequenze medie 87.9, salutiamo anche chi ci ascolta in DAB, che dovrebbe essere dalle parti di Terni, dove appunto il DAB di Radio Onda Rossa arriva. È attivo. E salutiamo chi ci ascolta dovunque sia in streaming dal sito. Pezzo numero 9 della scaletta di stasera, lei è Francis Chang, il pezzo Rate My Aurea. Aesthetics of erasure, the fate of echo. But we bring October with us, to feel around in that space where I used to be, held in that firm, tender way I needed. And now, broken strings of years later, I return to that mental grove for the thousandth time. Lost in the tactile. each other up from the cold expanse of space. But we both know it's really all out there, don't we? Aren't we both en route to remembering? Or are we just playing at it in the shallows on a date with death, eating disgust over an appetizer of shifting sands? That was the third or fourth time I'd kicked it with him in 3 years, old Hades. You know, it just terrifies me. I don't think you could ever love me the way I love you. I love being scared of the moon with you more than I love being scared of my own shadow, alone in the middle of my birthday party. The key. How can understanding understand itself? The inner knows. Outer is buried in ignorance. I am your dreams and I try to send letters. My first language is symbol. I don't speak non-secret. Back in the unfailing blackout drunk days, under the finescence, a thought would cohere. A who knows how long rooted seed would finally sprout. Those synapses would cross and spark just so. The fate will show. And a new idea would come into being. An innocuous bite-sized revelation, and the next day, having plain forgotten the entire night, the same thought would again come into being. Just as before, people would say, "You said that already." You know it would have been born one way or the other. It was bound to make it through that fatty wall. Up from the depths of Pandora's box, and out my mouth. Is that karma? The inevitability of what is meant to bubble up? Or is it something more fixed? It's more than individuality that is crushed beneath fatalism. It's every presumption of the typical value of living. The notion of freedom. Well, there is a choice. Willingly follow or be dragged, kicking and screaming, dissociating, depressing, panicking, raging. Sorry to scare you. I don't claim to understand that someone wrote it all down beforehand. But you've got to admit, we don't have control over what bubbles up. Really think about it, we don't really have that much control over ourselves. I mean, we can try, but I guess what I'm trying to say is we don't have control over what we don't yet have control over. It's irrefutable, that iron chain of cause and effect. I'm not advocating. But it's a bloody race against yourself. To outrun your own desire for blindness. For innocence. I'm all for trying as best you can. It's all there is to do. That and to try to find it within yourself. To wish love upon you. Francis Chung, Rate My Aura. Torniamo a New York in realtà con questa chitarrista, cantautrice, al suo secondo lavoro uscito il 16 febbraio scorso, che si intitola Psychedelic Anxiety, e si sente l'ansia in questo, come dice lei, questo album, che è un album molto molto molto bello, registrato quasi tutto diciamo a casa da Francis, credo. Ma non insomma, si chiamava Support Your Local Quello è il suo primo album, questo è il secondo. quello da cui abbiamo tratto questo album, questo pezzo. Ah, ok. Ti sei distratta. Mi sono distratta. Socio Local Nihilist è il suo primo album, sì, insomma, il suo primo proprio LP, sì, di debutto. E molto, molto bello questo lavoro, molto spirituale, molto emozionale, ma in un modo molto particolare. Cioè, non c'è niente di romantico, niente di morbido, niente di leggero. In realtà è tutto bello, bello teso, bello ansiogeno, come preannuncia il titolo. No, perché questa canzone mi ricorda, cioè è una mezza cover che non è una cover, che è però una cover. Va bene, sono le 19.57, questo è Likewise, ci avviamo a chiudere la puntata di questa sera, ci spostiamo ancora in giro per il mappamondo, anche se adesso lei vive in Spagna, è una cantante attrice di Sahrawi, si chiama Aziza Brahim e il pezzo è Tajidiba. خاطيها ما نعرف يدروها واللي خاطيها خاطيها ما نعرف يدروها واللي خاطيها ما نعرف يدروها Aziza Brahim, Tajiba, è questo singolo che abbiamo tratto dall'album che si intitola Mauja, è uscito lo scorso 23 febbraio per la Glitter Beat. Mauja racconta Aziza che sono le onde radio, no? Che portavano i suoni della musica di tutto il mondo e che con i nonni ascoltava nel campo dei rifugiati Sahrawi in Algeria, nella regione di Tindouf, uno dei campi profughi più longevo in realtà, perché ancora esiste da lì, che diciamo la Repubblica Democratica Araba del Sahrawi ha sede amministrativa in sostanza nel campo sul territorio algerino, ovviamente campo nato dopo l'occupazione durante la guerra del Sahara occidentale da parte dei marocchini, e quindi furono spinti via. Nata appunto in questo campo, cresciuta lì diciamo con tutte le difficoltà di quello che può essere la vita in un campo di rifugiati, ma come racconta lei, con la compagnia della musica che poi è diventata anche la sua vita artistica e il suo lavoro insomma nella vita. Quindi un bel album, secondo me molto bello, molto intenso, molto ricco. Ovviamente se vi piace questo stile musicale, che si sente molto anche delle sonorità marocchine e non solo algerine e non solo sahariane, quindi insomma molto molto bello. Ci piaceva anche omaggiare Aziza e il suo lavoro. Sì, esattamente, hai detto tutto. Sono le 20.02, noi siamo quasi in orario per chiudere la puntata di questa sera. Vi ricordiamo che dopo di noi andrà in onda alle 20.15 Note Cose Città, con una puntata dedicata a Kurt Cobain nel, diciamo, nel trentennale della sua morte, che è stato il 5 di aprile del 94. Lui è morto il 5 aprile, c'è stato il trentennale. E dopo ci sarà Semilla con Musica dal Mondo, e poi ci sarà Morfire, quindi restate all'ascolto di Radio Onda Rossa del martedì, tutto musicale da qui a, insomma, alle 11 di questa sera. E non dimenticatevi di sottoscrivere per la radio con il radio abbonamento, di passare la voce a vostri amici, conoscenti, persone insomma che sapete che possono in qualche modo aiutare o interessare, essere interessata ad aiutare la radio, perché sapete che non campiamo d'aria, non abbiamo pubblicità, non ci sono padroni, padrini, non ci sono sponsor, e quindi, ma ci sono le spese e le bollette, e quindi abbiamo bisogno insomma dell'aiuto di tutti voi per poter andare avanti. Detto questo, noi ci vediamo il prossimo martedì. Buona serata, ciao ciao.